24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui, buongiorno cari ascoltatori, eccoci in diretta fino alle 9 con 24 mattino. Siamo anche su Twitter, @Alino Milan, ci trovate, mi trovate così, oppure @24 mattino se volete cercare la trasmissione. Oggi avremo ospite l'onorevole Gaetano Pecorella, che è stato anche avvocato di Silvio Berlusconi, per parlare di queste intercettazioni che sono uscite nel processo in cui è coinvolta Ruby. E poi parleremo di tasse, scontrini fiscali, perché continuano le battaglie, continua la battaglia, la ricerca della Guardia di Finanza con i blitz per fare mettere gli scontrini ai commercianti. Questo secondo alcune stime ha portato all'aumento di scontrini negli ultimi mesi. Insomma, la battaglia all'evasione fiscale, un tema che da mesi tiene banco sui giornali. Oggi ci torneremo, questo alle 8:30. Ora da cosa iniziamo? Dalla lettura dei quotidiani in edicola. Questo martedì 24 aprile le aperture dei quotidiani sono quasi tutte incentrate sulla situazione economica, le borse che cadono dopo il primo turno delle presidenziali francesi e dopo la crisi anche di governo in Olanda. L'Europa affossa le borse, Milano meno 3,8%, spread a 409, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. E poi il Corriere della Sera, le paure europee affossano le borse. Repubblica, effetto Francia, giù le borse. La Stampa, Europa fragile, mercati a picco. Il Giornale, la Francia silura l'euro. Per il Messaggero, borse a picco, risale lo spread. Per Libero c'è un disegno a quasi tutta pagina di Angela Merkel e Mario Monti: rischiamo il pacco d'acciaio. Questo è il titolo di Libero. Per l'Unità, conti alla rovescia, giornata nera per le borse, Banca Italia e Corte dei Conti avvisano, troppe tasse. Qualche apertura diversa c'è sul Fatto Quotidiano: Finmeccanica in Svizzera a caccia della tangente, mentre il Manifesto alla vigilia del 25 aprile, l'ANPI di genio, non è l'ANPI ma l'ANPI, cioè l'Associazione Nazionale Partigiana, l'ANPI di genio, si elogia così il fatto di non avere invitato a Roma Alemanno e Polverini alle manifestazioni del 25 aprile. Allora, da cosa vogliamo partire? In prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo un articolo di Gianantonio Stella sulle province, la disfida sarda del referendum contro gli sprechi. Riuscirà il fortino di Lanusei a resistere all'assedio? A pochi giorni dal referendum in Sardegna sull'abolizione delle 4 province supplementari inventate 7 anni fa per bulimia Castale, il paese di 5.655 anime, eretto a capoluogo dell'Ogliastra, è diventato con le altre capitali mignon il fortalamo della resistenza ai tagli della politica. La vicenda è questa, sono i referendum su cui si dovranno pronunciare i cittadini sardi per decidere se abolire le 4 province aggiuntive che sono nate qualche anno fa, vale a dire Olbia, Tempio, Pausania, l'Ogliastra, il Medio Campidano e Carbonia Iglesias, se abolirle. Ebbene, i referendum spaccano la Sardegna, regione in guerra con le province, ricorsi, dossier per impedire di cancellare le ultime 4 nate. L'articolo prosegue poi a pagina 17 e scrive Gianantonio Stella: i partiti sotto questa specie di bora che soffia impetuosa per abbattere gli sprechi non sanno cosa fare. Tanto per dire, da una parte il governatore Cappellacci è deciso a intercettare l'ira popolare, schieratissimo con i referendari, al punto da promuovere una campagna di spot istituzionali per ricordare a tutti gli isolani che il 6 maggio sono chiamati alle urne, mentre il segretario regionale del PDL Settimio Nizzi, medico e amico personale di Berlusconi, è contrario, le nuove province per lui dovrebbero restare. Così c'è spaccatura anche nel partito di Bersani: da una parte il segretario regionale Silvio Lai, favorevole a tornare al vecchio assetto con 4 province, dall'altra il presidente democratico dell'Unione Province Sarde, Roberto De Riu, a suo tempo contrario al raddoppio degli enti locali, si leva oggi a custode delle neosorelle. Insomma, un gran casino. Tra l'altro, si voterà appunto il 6 maggio, E le province ovviamente sono decisissime a vendere la pelle. Non solo hanno fatto un ricorso al TAR contro la legittimità dei referendum, ma persa la causa davanti ai giudici amministrativi stanno battagliando ora in extremis davanti al Tribunale Civile e di più si sono spinti a presentare un dossier sui costi delle poltrone in regione, dove peraltro hanno già varato a 50, nell'infuria di polemiche, una riduzione da 80 a 50 consiglieri, della serie la regione contro le province e le province contro la regione. Sta di fatto che è l'ennesima storia italiana di tagli alla politica che ci saranno ai costi della politica, chi lo sa, ve lo segnalo sul Corriere della Sera. Come vi voglio segnalare un articolo che ci porta in una realtà ben diversa, vale a dire in Sudan, perché sui giornali italiani ci sono, come ho detto qualche giorno fa, sempre meno reportage. Questa volta lo fa un giornalista che io apprezzo molto personalmente, Domenico Quirico, scrive anche molto bene. Allora sulla Stampa vi segnalo questo reportage dal Sudan, pagina 16 e 17, il titolo è: gli aerei di Bashir bombardano il sud, strage in Sudan. Sentite cosa e come scrive Domenico Quirico. I tubi dell'oleodotto, fitti di manometri, paratie, si alzano come una luccicante flora di metallo sul terreno scuro, intatti. Bave nere di greggio impregnano la terra, hanno luridi riflessi oleosi. I cadaveri dei soldati, coricati sul fianco, bocconi, alcuni giovanissimi, dilettanti della guerra, tutti senza scarpe, che sono preziose in queste terre maledette, sono la prima ricchezza che si prende al nemico vinto. Sono già nella calura impietosa, gonfi di quel greggio, morti per difendere o conquistare quei tubi e quella terra avvelenata, nordisti del subdolo e feroce genocida a piede libero al Bashir, o sudisti dell'ambiguo istrione democratico a Kir. Questa è Eglig, appena oltre l'opaca frontiera tra i due Sudan, di nuovo in una guerra furiosa che avrebbe già 1200 morti. A Bentiu, quello che era un mercato di baracche, capanne, butta ritorte lingue di fiamma al cielo, crocchia come un pagliaio, è ormai una miserabile barricata di ruderi neri di fuliggine. Si raccolgono corpi, feriti, morti, un bambino orrendamente bruciato. Bentiu, capitale della provincia petrolifera di Unity nel Sud Sudan, porta i segni del raid dei vecchi ma feroci MiG nordisti, ieri il terzo. Volevano distruggere un ponte strategico perché collega la città alla frontiera, che è 60 chilometri. Errore? Strage voluta? Appena 24 ore prima il governo di Juba aveva annunciato, per evitare la guerra totale, di aver ritirato le truppe dai campi petroliferi di Eglig, gli ultimi rimasti ai nordisti musulmani, dopo la spartizione del paese. Questi soldati, questi civili, hanno aggiunto una nuova quota ai morti del mondo, perché qui la guerra da 20 anni prosegue monotonamente il suo cammino, si batte con gelida pigrizia, morti non per una causa, un ideale, l'indipendenza o una fede religiosa, Islam contro animisti e cristiani, un tribalismo, Africa nera contro quella araba, sono morti soltanto per un dio crudele e sudicio che si chiama petrolio e per l'ottusa stupidità di coloro, Stati Uniti in testa, che hanno voluto la creazione di uno Stato sudista come arma di pressione nei confronti degli infidi musulmani del nord e per riempire le petroliere. Insomma, inizia così questo reportage di due pagine che poi prosegue sull'ennesima dimenticata guerra che si protrae da anni, da decenni, in questo caso in Sudan, diviso in due, Sud Sudan e Sudan. Gli aerei di Bashir, vale a dire colui che controlla il nord, la parte del Sudan del nord, e che è stato anche incriminato per crimini di guerra dal Tribunale Internazionale, gli aerei di Bashir bombardano il sud, e il reportage di Domenico Quirico per La Stampa. Allora, le 7:35 minuti, come detto è stata una giornata dal punto di vista della finanza, le borse sono andate a picco. Le primarie in Francia hanno inciso e così anche ha inciso la crisi di governo in Olanda. Risultato, l'Europa ha visto affossare le borse. Certo, in Francia e in Olanda è successo, ma Milano soprattutto è quella che è crollata di più. Piazza Affari ha perso il 3,8%, più degli altri. E tra l'altro, come racconta il Sole 24 Ore, la giornata sui mercati a pagina 2-3, torna lo stress da spread, eh? Vi sentite stressati per lo spread? o per altre cose. Comunque, torna lo stress da spread, perché si è saliti a 409 come valore di riferimento ieri e dunque la situazione economica torna a far preoccupare. Un po' un eufemismo, non è che mai ha smesso di far preoccupare. Allora, ovviamente ancora su tutti i giornali c'è proprio l'analisi del primo turno delle primarie presidenziali, che hanno visto vincere per il momento Hollande, che dovrà confermarsi ovviamente se vorrà andare all'Eliseo tra 15 giorni. E c'è un'intervista che Roberto Mania su Repubblica fa a Giulio Tremonti, colui che all'interno del Popolo della Libertà, dicendo io voterei Hollande, ha un po' spiazzato tutti. Lui dice no, io non c'è nulla da spiazzare, perché in realtà dal punto di vista delle idee sulla finanza siamo abbastanza simili, io e lui. Io dico che Hollande può combattere la finanza, così Giulio Tremonti, che dice non esistono più la vecchia sinistra e la vecchia destra, si formano una nuova sinistra, una nuova destra. Ad esempio, di nuova destra lo vedo nello spontaneismo reattivo dell'estrema destra francese. Il banco di prova è la posizione sulla finanza. C'è da una parte chi pensa che il suo potere sia in fondo positivo e dall'altra chi, come Hollande e il sottoscritto, la considera il fattore che ha sovvertito il vecchio ordine e ha generato il caos. Deduco che lei non stia con la nuova destra, allora chiede Mania. Assolutamente no. E, riguardo alla vittoria, spero che vinca Hollande, lo ribadisce Giulio Tremonti. E poi viene un po' alle cose italiane, sul governo Monti. Premetto che per 3 anni il passato governo ha tenuto insieme il bilancio pubblico, non ha avuto una sola ora di sciopero, ha mantenuto la coesione sociale. Poi dopo agosto, e mio malgrado, è iniziata una diversa politica economica. Faccio notare che a valle del governo Monti lo spread era a 525, dopo un lieve calo a gennaio è risalito a quei livelli, poi sono arrivate le iniezioni di liquidità della BCE, ma ora lo spread sta risalendo. Era stato detto che la crisi in Europa era finita, dice con una certa ironia Tremonti. Una voce asiatica disse che pareva improbabile una risalita dello spread. La verità è che l'economia si sta avvitando, il settore immobiliare è fermo, l'immobiliare è fatto dalle famiglie italiane, la sequenza parossistica e progressiva delle tasse sarà causa di gravi tensioni. Insomma, questa è l'analisi abbastanza impietosa di Giulio Tremonti, che poi conclude l'intervista: mi ricandiderò, penso di sì, e alla domanda ma con chi, ogni cosa a suo tempo. Dunque, per il momento resto nel mio partito, nel PDL, finché ci sarà, poi si vedrà, così fa sapere Tremonti. E l'altra figura su cui si concentrano tutti è certamente la vincitrice, anche si può dire, del primo turno delle presidenziali, con le sue percentuali molto alte, Marine Le Pen. Tutti i riferimenti culturali della destra di Marine Le Pen, c'è il Corriere della Sera che fa una pagina dedicata al fenomeno Marine Le Pen, pagina 6. Il personaggio Marine Le Pen, scrive Stefano Montefiori, è difficile da affrontare, come complicato capire perché il 17,9% dei francesi l'abbiano votata. È sincera quando si mostra diversa dall'impresentabile mai rinnegato papà? Di sicuro lei ha trasformato il Front National, anche se è meno certo che l'abbia fatto in meglio. Jean-Marie era talmente intriso, vale a dire il padre, era talmente intriso di stereotipi antisemiti che ancora al congresso un anno fa riuscì a ridere del naso adunco di un giornalista definito evidentemente ebreo. Marina ha sostituito l'antisemitismo istintivo del padre con l'avversione per l'Islam, i musulmani, dicono lo studioso Madani Scherfa dell'Università di Parigi, da cui per esempio la battaglia contro la carne halal. I musulmani rappresentano la saldatura dei due temi forti della sua politica, la questione sociale, cioè la difesa delle classi popolari deluse dalla sinistra e dall'Europa, e la lotta contro l'immigrazione. E infatti c'è anche un articolo interessante, Le Penisti d'Italia, chi sono i maggiori fan di Marine Le Pen in Italia? C'è Francesco Storace, che 2 settimane fa è andato a trovarla in Francia. C'è Mario Borghezio, che sulla lotta all'immigrazione, soprattutto quella dai paesi musulmani, si trova molto vicino a Marine Le Pen. C'è Daniela Santanchè, che l'ha invitata varie volte una volta anche da sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e Berlusconi sapeva cosa facevo, dice ora Daniela Santanchè. C'è anche Isabella Rauti, la moglie del sindaco di Roma, Alemanno, che ieri ha detto: avrei votato Le Pen al primo turno. Le penisti d'Italia. Vabbè, questo per quel che riguarda l'analisi economica e anche politica di quello che è successo in Europa, mentre in Italia tiene banco sempre questa bella parola che tutti noi italiani, questa bella espressione che stiamo imparando, diventando tutti degli inglesi perfetti, spending review, no? Il taglio della spesa, che sembra il nuovo mantra che da qualche giorno esonda dalle colonne di piombo dei giornali. Spending review. Oggi il Sole 24 Ore fa due pagine dedicate a questo. Dino Pesole le firma: dalla spending review 4 miliardi anti rincari IVA. C'è il ministro Giarda che a giorni dovrebbe comunicare, dopo che sarà finita la ricognizione in corso, la definisce Dino Pesole, che culminerà a breve nella presentazione in Consiglio dei Ministri di un primo documento di dove si potrà tagliare, le criticità emerse. Capite come si dice? Le criticità. Io ieri ironizzavo dicendo su Twitter che le famiglie italiane la loro spending review, senza manco sapere cosa significhi spending review, l'hanno già fatta, cioè hanno dovuto tagliare di qua e di là. Allora, qua invece lo Stato sta facendo una lunga ricognizione da cui emergeranno presto le prime criticità, dalle quali poi si potrà sperare di arrivare ai tagli. Il Sole 24 Ore si concentra anche su ministero per ministero. Agli interni, per esempio, l'accorpamento delle prefetture, racconta Marco Ludovico, potrebbe essere una delle soluzioni. Alla difesa fanno già sapere: noi la nostra spending review l'abbiamo già fatta, perché negli anni ci sarà una riduzione del numero dei militari. Alla giustizia si punta all'abbattimento del 50% per le intercettazioni, racconta Donatella Stasio a pagina 15. A questo proposito Repubblica va a intervistare direttamente il ministro della giustizia Paola Severino. Lo fa Liana Milella, l'intervista la trovate a pagina 10 e 11. Lo chiama risparmio da brava madre di famiglia. Ecco, questa è un'espressione un po' più consona di spending review. Sentite il guardasigilli: farò una gara unica per le intercettazioni, spendendo tra i 200 e i 250 milioni di euro in meno l'anno. Sorveglianza ridotta per i detenuti non pericolosi, con personale riutilizzato altrove, ma soprattutto meno tribunali e meno giudici di pace. Quella dei meno tribunali, l'accorpamento dei tribunali, la sentiamo da 20 anni più o meno, forse anche di più. Il ministro Giarda non ha chiesto una lista di tagli, ha scritto, dice la Severino, ma collaborazione nel monitorare e riqualificare i processi di spesa. È la filosofia della spending review: spendere meglio, non solo spendere meno. Ecco, questa è la spending review: spendere meglio, non solo spendere meno. Mi verrebbe da dire che l'operazione che ci aspetta altro non è che una sorta di risparmio da brava madre di famiglia, che in un momento difficile come questo non solo taglia il superfluo, ma cerca le soluzioni più competitive sul mercato. E allora parla di nuova gara per le intercettazioni, risparmieremo su questo, anche risparmieremo sulle carceri. Non si risparmierà assolutamente sulle risorse umane, assolutamente non tagliabili. I magistrati, 8.734, sono ben al di sotto dell'organico, che è di 10.151. Lo stesso per gli amministrativi, sono 38.000 su 44.122. E non lavorerò neanche sui prepensionamenti, per noi sarebbe molto difficile, come invece ha detto vorrà fare il ministro dell'interno Cancellieri. Insomma, il ministro Severino presenta la sua idea di tagli. Intanto la Corte dei Conti dice che ci sono troppe tasse, chi non taglia sono i partiti. Qui gli unici che non capiscono l'antifona sono i partiti. Vedete cosa c'è a pagina 15 del Corriere della Sera? Finanziamenti per i tagli, tempi lunghi. Tempi lunghi. Si era detto è la priorità in assoluto. Era stato fatto da ABC, Alfano, Bersani e Casini, questa legge che doveva viaggiare come un freccia rossa da Milano a Roma senza fermarsi. 3 giorni e si è schiantata. al primo ostacolo della Camera. Dai partiti adesso nascono le ricette diverse, ognuno ne propone una. Il presidente del Senato Schifani dice bisogna fare in maniera velocissima, entro l'estate, se no poi entreremo nel vortice preelettorale, pre-campagna elettorale, cioè che vuol dire 7 mesi prima non si può più fare niente perché è tutto in campagna elettorale, già campagna elettorale, situazione drammatica, i tempi sono strettissimi. E presto o crolla tutto, ha detto Schifani, e per il momento non se ne fa nulla. In Italia i partiti sono coinvolti da inchieste, e tra poco vedremo un'inchiesta, invece un processo più che altro, è quello che sta andando avanti e che ieri ha visto un'altra udienza, è il processo a Silvio Berlusconi, il processo Ruby cosiddetto. Ieri c'è stata ci sono gli audio delle telefonate intercettate di Ruby con alcune amiche che sono finite sul sito di Repubblica.it e che sono ora tutte ascoltabili. Mi ha sentito anche qualcosa nel nostro giornale radio. Che cosa diceva Ruby? Beh, ne parleremo poi con Gaetano Pecorella, parlamentare ex avvocato in altri processi importanti di Silvio Berlusconi. Da Silvio 47.000 euro a settimana, il problema è che sono minorenne, così dice Ruby, che però dice anche in un'intercettazione non ho fatto sesso col premier, con l'ex premier in questo caso. E quindi ovviamente ogni giornale la interpreta a modo suo, Repubblica dice ecco la prova, Ruby che dice devo fare la pazza, mi darà 5 milioni, ha detto che mi coprirà d'oro, mentre sui giornali come il giornale dice ecco la prova che smonta tutto, Ruby dice non ho fatto sesso con il premier, ognuno prende stralci di intercettazioni, le usa pro domo suo, sta di fatto che il tema è anche questo, intercettazioni che finiscono in pasto ai giornali. Per il Fatto Quotidiano a pagina 8 il Bancomat B, Ruby mi dà quello che voglio, al telefono con un amico dice, mi dice fai la pazza, salvami. Con secondo il giornale Adalberto Signore fa un'analisi della sensazione di Berlusconi, il timore di Berlusconi è mi vogliono fuori dai giochi, proprio nei giorni in cui Casini ha lanciato la corsa ai voti dei moderati e ripreso l'assalto mediatico giudiziario con l'ex premier a cui viene attribuita questa frase non mi farò certo da parte. A proposito invece di inchieste, l'inchiesta che vede l'apertura del Fatto Quotidiano, ma molti giornali se ne occupano, riguarda Finmeccanica e una presunti fondi neri che sarebbero finiti nelle casse della Lega. Dai fondi neri Finmeccanica milioni di euro al carroccio, Fiorenza Sarzanini ne parla a pagina 12. Erano in una fiduciaria svizzera i documenti che proverebbero il pagamento di tangenti da parte di Finmeccanica per ottenere commesse estere per finanziare la politica italiana. La vicenda riguarda l'acquisto di 12 elicotteri di Agusta Westland e forniti poi al governo indiano. Tutto è stato fatto, racconta Fiorenza Sarzanini, tramite la mediazione di un uomo d'affari che prima aveva chiesto 41 milioni di euro, poi il prezzo è stato fatto alzare fino a 51 milioni di euro. Dunque si sarebbero creati, secondo l'accusa dei magistrati napoletani che indagano sull'inchiesta della Lega, 10 milioni, almeno 10 milioni di euro, utilizzati, questa è l'ipotesi della procura, per soddisfare le esigenze dei partiti e in particolare quelle del carroccio, questo sostiene una delle persone indagate. E insomma, l'inchiesta di Napoli su presunte tangenti pagate per ottenere commesse all'estero, e così lo trovate appunto all'apertura del Fatto Quotidiano, lo trovate un po' ovunque. Poi, se vogliamo arrivare, visto che siamo alla vigilia del 25 aprile, e tra l'altro vi annuncio, noi saremo regolarmente in onda domani, 25 aprile, cosa c'è di più noioso dei dibattiti che ogni anno ci sono? Sembra un film veramente già visto e rivisto. Ogni anno le solite stesse polemiche, sempre le stesse polemiche. Il fatto, no, il manifesto apre sul tema l'ANPI di Genio, non è che c'è un refusal, L apostrofo ANPI, cioè l'Associazione Nazionale Partigiana di Genio, perché non hanno invitato Alemanno e Polverini, che scoprono di non essere graditi alla manifestazione del 25 aprile. La liberazione di tutti, scrive il manifesto, ma gli inviti li fanno i partigiani, che non dimenticano gli insulti ai loro morti e le coccole agli estremisti di destra. Dunque, liberazione non per tutti. Cosa ha fatto invece per questi mancati inviti il capo dello Stato napolitano, che oggi festeggerà al Quirinale la ricorrenza del 25 aprile, ha fatto la mossa di invitare lui sia la regione sia il comune di Roma. E dunque la mossa di Napolitano oggi al Colle vedrà insieme ANPI, Alemanno, la Polverini e anche Zingaretti, la provincia. Dunque, per anche il Corriere, la mossa di Napolitano contro le liti sul 25 aprile. L'altra lite del 25 aprile è negozi aperti o chiusi? Ci sono dei sindacati che invitano al boicottaggio dei negozi aperti, volantinaggio di CGIL, CISL e UIL. E c'è anche la polemica di Francesco Guccini, il grande Francesco Guccini, cantautore, che si è molto inalberato, e ha ragione, perché ci sono in circolo dei volantini di estrema destra che inneggiano ai ragazzi di Salò e utilizzano questa frase: gli eroi sono tutti giovani e belli, che è una delle frasi chiave, uno dei versi chiave della sua canzone La locomotiva. Guccini scippato dai neofascisti, titolo al Secolo XIX, pagina 13. Guccini che dice: le canzoni sono così, sono di tutti, però certo questa davvero non mi piace. Vabbè, è la vigilia del 25 aprile. 24 mattino. Ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:22 minuti. Allora, sono entrate anche le intercettazioni, ora ascoltabili da tutti, pubblicate dal sito di Repubblica, sul processo, il processo cosiddetto Rubine. Vogliamo parlare con l'onorevole Gaetano Pecorella del Popolo della Libertà. Buongiorno, onorevole Pecorella. Buongiorno a lei e a tutti. Lei è anche avvocato, non è l'avvocato di Berlusconi in questo processo, è stato avvocato di Berlusconi, però intanto le faccio una domanda sulle questioni delle 50.000 intercettazioni. Secondo lei sentire questi audio, voglio dire, l'immagine anche processuale di Berlusconi rischia di subire dei contraccolpi? Beh, certamente sono intercettazioni che da un lato danno l'impressione sgradevole di entrare nella camera da letto di qualcuno, cosa che credo nessuno di noi faccia piacere, dall'altra parte certo danno un quadro di una situazione anche di ansia e di preoccupazione di Berlusconi, questo non c'è dubbio. Direi che questo è il senso di un'aggressione che oramai dura da anni, ma nello stesso tempo è anche un dato obiettivo. Insomma, le conversazioni, per quello che valgono, trattando di conversazioni tra terzi, dove ovviamente il presidente Berlusconi non c'è. Cioè, lei dice ci sono magari non penalmente possono non avere valore all'interno del processo, però sono inequivocabili, insomma, in quello, nello spaccato che ne emerge. Sono inequivocabili naturalmente tenendo conto che ciascuno può dire al telefono quello che vuole con una propria amica, cioè nel senso che valore diverso hanno le intercettazioni tra il soggetto interessato e l'altra persona che dice qualcosa a lui, e invece tra terzi, per cui io posso raccontare quello che voglio, tanto l'altra persona non è in grado di verificare la veridicità di quello che dico. Ma politicamente, secondo lei, ne avrà un contraccolpo Berlusconi? Oggi sul giornale si legge, dice, è tornato l'attacco mediatico. Anche lei ci fa capire che questo attacco c'è, secondo lei, ma ci sarà anche un riflesso negativo dal punto di vista politico, vale a dire l'idea delle cene eleganti o delle gare di burlesca regge ancora? Ma guardi, io credo che tutta questa vicenda abbia pesato indubbiamente sulla politica, perché una volta che si è entrato nell'opinione corrente che la vita privata di un politico, forse anche una sua ragionevolezza, non è separata dalla vita pubblica, se non proprio ciò che riguarda soltanto lui, soltanto la sua massima privatezza, beh, certamente questi fatti non possono lasciare indifferente chi ascolta e chi legge, però devo dire che sono a loro volta una grave violazione di un principio fondamentale, che le intercettazioni non dovrebbero essere diffuse se non quando passano attraverso il filtro del tribunale, anche perché il nostro processo è fatto in modo che le prove si formino in udienza e nel dibattimento delle parti. Se qui viceversa le facciamo uscire tutte prima, anche magari prove che non entreranno mai per motivi formali, eccetera, finiamo per fare i processi mediatici anziché fare i processi nelle aule. Ma secondo lei è inopportuno pubblicarle, però non è illegale? No, anche non in questo caso non è illegale, perché oramai siamo al dibattimento, quindi si tratta di intercettazioni sicuramente, immagino, destinate, adesso io quel processo non, personalmente non lo seguo, ma immagino destinate a entrare nel dibattimento. Però diciamo che c'è una irritualità di fondo, e cioè diffondere notizie che devono entrare nel processo per le vie legali, che vuol dire il contraddittorio delle parti, e diffonderle invece attraverso mediaticamente. Mediaticamente. E tra l'altro oggi credo ci sia anche un'intercettazione in cui la consigliera regionale Nicole Minetti parla direttamente con Silvio Berlusconi, dunque in cui dice: posso invitare a una festa, alla cena stasera, una mia amica, in cui c'è anche la voce di Silvio Berlusconi, che è parlamentare. Questo secondo lei è un qualcosa di sbagliato? O una violazione di una qualche tipo di legge? Ma guardi, dipende da questo elemento, da questo fattore, e cioè se una intercettazione, per così dire, occasionale, nel senso che viene intercettato un altro soggetto e ha una conversazione occasionalmente con un parlamentare, per cui non è sottoposto a esame il telefono, a controllo il telefono del parlamentare, oramai la giurisprudenza lo ammette. Io sono molto dubbioso, perché alla fine ciò che deve essere tutelata è la privacy politica, nel senso che in quella conversazione si potrebbero dire le cose di rilevanza politica particolare. Però oramai la giurisprudenza questo l'ha detto. Se viceversa ci sono contatti frequenti tra il terzo, il privato, diciamo così, e il politico, beh, in questo caso si devono interrompere immediatamente le intercettazioni. Lei è l'avvocato invece di Emilio Fede. Ma ci può chiarire definitivamente la vicenda? Beh, no, chiarire non. Ci sarà ovviamente il processo, se ci sarà, su questa vicenda della valigetta. Però le volevo chiedere dei soldi presunti portati in Svizzera. Emilio Fede ha sempre detto: so chi è stato. Poi c'è stato sui giornali, qualcuno ha detto, accusato dirigenti di Mediaset. Lei ha smentito. Si sa, ha fatto il nome Emilio Fede di chi avrebbe ordito questo complotto nei suoi confronti o no? No. Direi che Emilio Fede ha fatto un'ipotesi collegata alla situazione di tensione che c'era perché lasciasse la direzione del telegiornale, ma non ha mai pensato di accusare, tanto più i vertici dell'azienda, riferisco all'amministratore delegato, al presidente, eccetera. Peraltro era soltanto una ipotesi che nasceva dal fatto che sostiene, e io credo ha ragione, di essere del tutto estraneo a quell'episodio. Peraltro anche qui vede il problema dei mezzi di comunicazione, della correttezza dei mezzi di comunicazione. È stata data la notizia come se esistesse un esposto, un soggetto che l'ha fatto, eccetera, quando poi si tratta di una lettera anonima. Ora, Però lo stesso Fede in interviste ha detto: sì, adesso lo dico io nel giro di 48 ore chi è stato. Sono interviste che ha fatto lui, diciamo. Chi è stato non a fare rappresentarsi con la valigetta, ma chi avrebbe ordito questo piano? Evidentemente aveva in mente una persona, ma quello che posso, una persona, un suo avversario interno, come c'è in ogni azienda, ma certamente quello che questo nome non lo ha fatto, pur essendo sentito dal magistrato, e certamente quello che posso confermare è che non ha mai pensato che i vertici dell'azienda avessero tramato contro di lui. Un'ultima domanda la devo fare sul, secondo lei, il futuro politico di Berlusconi. Lei ha capito che vuol fare come partito, che è annunciata questa grande novità, che arriverà la novità più incredibile degli ultimi anni? L'ha capita? Lei intuisce qualcosa? Bah, probabilmente è un'operazione per ricostituire o per fare nascere questo grande partito di centrodestra, dei moderati. Vedremo quale sarà questa grande novità. Secondo me la vera grande novità è quella di fare una scelta diversa dai gruppi dirigenti del Popolo della Libertà rispetto a un periodo che è stato abbastanza oscuro e contrastato. Cioè, che vuol dire? Via Alfano? No, assolutamente. No, beh, Alfano direi che è una persona su cui non si può dire assolutamente nulla. E a chi pensa? Ma io penso che ci siano state fatte delle scelte, magari dove il livello culturale, il livello di preparazione politica, eccetera, non sempre era quello che c'è stato nel passato, dal 94 al 2006. Ma mi dà un nome, cioè a chi pensa quando pensa questo? I nomi in questi casi non sono utili, quello che è utile è dire cambiamo una classe politica che peraltro oggi il paese non condivide più. Vuol dire che la scelta che ha fatto il presidente Casini di azzerare tutto e di dire ricominciamo da zero, non so poi sul piano dei fatti come si sviluppi, ma certamente è ciò che chiede il paese: ricominciamo da zero con una classe politica diversa. Che fino ad oggi una classe politica diversa e che comunque sino ad oggi non ha dato al paese quello che si aspettava. Questa mi pare la grande novità. In fondo la presenza di Alfano, che è un uomo che fa politica ma l'ha sempre fatta con grande trasparenza e dignità eccetera, ha il suo significato. Io la ringrazio, buona giornata ovviamente all'avvocato onorevole Gaetano Pecorella del Popolo della Libertà. Noi dopo la pubblicità e il meteo ripartiamo dal tema, ricordate gli scontrini e i blitz della Guardia di Finanza, pare che abbiano sortito degli effetti, sono aumentate le commesse per le aziende che producono la carta per fare gli scontrini, insomma il tema è sempre quello, la lotta alla evasione fiscale. 24 mattino. Siamo qui allora alle 38-37 minuti, anzi 38 minuti ormai, il tempo vola, a parlare di tasse. Ieri leggevo sul Corriere della Sera che il 14% di aumento delle vendite di prodotti fiscali, cioè le aziende che producono per esempio la carta per gli scontrini fiscali, hanno visto un aumento del proprio fatturato del 14%. Questo perché i blitz della Guardia di Finanza hanno portato un po' di sano terrore nella gente che emette gli scontrini. Ne vogliamo parlare con l'ex magistrato Bruno Tinti, che saluto, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei. Lei tra l'altro ha scritto un libro da poco, La rivoluzione delle tasse, edito da Chiare Lettere. Saluto con lei l'avvocato e ricercatrice dell'istituto Bruno Leoni, Serena Sileoni, buongiorno. Benvenuta. Vogliamo partire da Beppe Grillo, visto che va molto di moda. Sentite Beppe Grillo sulle tasse, sugli scontrini. Mandano la finanza, meravigliosa, la finanza a controllare gli scontrini. Gli a Corvetto nelle gelaterie si siedono lì e fanno finta di leccare e guardano. Le genovesi, cazzo, se la danno subito. Raffiche di scontrini escono scontrini da tutte le parti. Ma perché? Qual è il messaggio? Il messaggio è di pagare le tasse, lo sappiamo tutti, è un messaggio buono che dobbiamo tutti pagare le tasse. Ma il loro messaggio è un altro, il loro messaggio è quello di dire siamo nella merda, è colpa vostra che non pagate le tasse, è questo. Ma voi siete così sicuri che se pagassimo le tasse questo paese andrebbe bene? Insomma, dice poi Beppe Grillo, ruberebbe il doppio il governo che prenderebbe il doppio di tasse. Dottor Tinti, la questione degli scontrini, insomma, instilla l'odio sociale, ha aggiunto anche Beppe Grillo, la Guardia di Finanza. Lei nel suo libro invece a pagina 121 scrive: interventi del genere dovrebbero essere moltiplicati, della serie far capire c'è un nuovo sceriffo in città. È questo l'approccio giusto? Ma mi dispiace molto che Grillo, che così è indubbiamente uno che porta una ventata nuova nel mondo della politica, poi dica queste stupidaggini. E in buona sostanza Grillo è l'autore di questo messaggio: due torti fanno un diritto. Lo Stato è inefficiente, lo Stato sperpera, la classe politica è corrotta. I cittadini devono difendersi, e come si difendono? Non dando allo Stato le risorse necessarie per sopravvivere. Se dovessero dargliene, dice Grillo, lo Stato, gli uomini che compongono lo Stato ruberebbe ancora di più. Questo è l'equivalente di un treno che senza freni, indubbiamente per colpa di qualcuno, potrebbe essere fermato con la collaborazione di tutti i viaggiatori. Tutti potrebbero scendere, fare molta fatica, qualcuno magari si fa anche male, ma il treno si ferma. Ma sono i viaggiatori a dover collaborare, oppure i viaggiatori scelgono un conducente? Il nostro Stato è finito. E lo devono fare i cittadini? No, ma è questa la questione. Le chiedo, lo devono fare i conducenti del treno, quel qualcosa, cioè, o meglio i passeggeri del treno, perché i passeggeri del treno delegano alla fiducia di un conducente una scelta che poi... Ma vede, c'è sempre un piano di diritto e un piano di necessità. Di diritto si capisce, i cittadini delegano i loro governanti e i governanti hanno l'obbligo di amministrare correttamente lo Stato, ma se non lo fanno, andiamo tutti allegramente verso la rovina dicendo è colpa tua e non mia, non tocca a me? No, questo punto è chiaro, cioè le dice il fatto che qualcuno rubi non mi autorizza a dire vabbè, allora visto che si va tutto allo sfascio, rubo anch'io, insomma, non, in questo caso non emetto lo scontrino fiscale. Io vorrei dall'avvocato Sileoni a capire, non so se la pensa come Beppe Grillo, credo proprio di no, diciamo, come background culturale e ideologico, però è interessante, come leggere i due dati, cioè il 14% di aumento di fatturato di persone, delle aziende che producono gli elementi, per esempio la carta per gli scontrini, dall'altra parte molti commercianti e anche molti cittadini che dicono ma cos'è lo sceriffato fiscale che ci viene a controllare in casa? Guardi, mi permetto una prima battuta, mi viene da dire che questo 14% di fatturato in più per una fetta di impresa è un segno di successo, di ripresa economica, almeno per appunto, loro. Questo, almeno per loro sì, per chi è in quel settore sì, certamente. Possiamo pensare finalmente che qualcosa di buono i governi, non voglio parlare solo dell'ultimo governo, ma i governi e soprattutto la burocrazia fiscale la stanno facendo, peccato che non è questo quello che serve, insomma, non possiamo sentirci soddisfatti per il fatto che i rullini di carta hanno aumentato la loro produzione. Il problema di Grillo, ha posto una domanda, io sono molto distante personalmente dalle posizioni di Grillo, ma ha posto una domanda che mi sembra molto più seria rispetto a molte altre sue boutade, e cioè, ma questi aumenti di tasse, noi stiamo arrivando a un pareggio di bilancio con 87,3 miliardi di tasse in più. Questi aumenti di tasse a che cosa servono? E questo è il punto. Se noi sapessimo che servono a ridurre nel futuro la spesa pubblica, servono a quel rigore che può portare poi a una crescita, io credo che ci impegneremo tutti a pagarle, non tutti, ma diciamo molti più italiani di quelli che non possiamo immaginare. Ma se poi ci dobbiamo sentir dire dal governo in carica, a cui abbiamo dato tutta la nostra fiducia anche per la loro autorevolezza, ci dobbiamo sentir dire per ben due volte attenzione, aumentiamo le tasse, ma poi quel fondo per cumulare i ricavi dalla lotta all'evasione e quel rigore che vi stiamo chiedendo per adesso non porteranno a un abbassamento, a un alleggerimento del sacrificio che vi abbiamo chiesto. Allora, sinceramente si rompe quel patto. Quel patto, per cui diventa una questione di obiezione fiscale, che è molto diversa, ci tengo a sottolinearlo, che è molto diversa dal difendere l'evasione fiscale. Cioè, chiariamo, l'evasore commette un torto, commette un reato, commette un illecito. L'obiettore, l'evasore appunto commette quello per il quale, ciò per cui deve essere perseguito, ma ci troviamo in una situazione in cui ad agire illegittimamente non è soltanto l'evasore, che molto spesso non è nemmeno evasore, ma è presunto evasore, e qui c'è sempre l'inganno che si porta avanti da anni tra evasore accertato, che in diritto tributario significa evasore, potremmo dire, indagato, evasore e poi condannato, su questo vorrei che il punto fosse chiaro, c'è un'altra attività che è parimenti contraria al diritto, che è quella dell'amministrazione fiscale e del governo, quando mettendo le tasse e perseguendole nel modo in cui fanno, vanno contro circa 3-4 principi della Costituzione: il principio di capacità contributiva, il principio della parità di contraddittorio, il principio al diritto di difesa e la libertà e il principio dell'accesso al risparmio. In questi casi lei mi pare di capire, dice, una sorta di, non so se obiezione o resistenza fiscale del cittadino, la concepisce di fondo? Ha un anemico di correre la maratona di New York. È una metafora da cui voglio ripartire dopo le informazioni sul traffico, molto efficace. Allora, dottor Tinti, se non si può chiedere a un anemico di correre la maratona di New York, come dice l'avvocato Sileone, immagino l'anemico siano i contribuenti italiani, molti dei contribuenti che si vedono vessati dalle tasse, anche il presidente della Corte dei Conti ha detto ci sono troppe tasse, vanno abbassate le tasse, si rompe quel patto di fiducia per cui il cittadino, una parte dei cittadini, qualcuno non ce la fa proprio a pagarle e qualcuno dice beh, ma io sapete che c'è, se dall'altra parte per fare la spending review, con questa terminologia, ci vuole una task force che forse tirerà fuori le criticità tra qualche mese, mentre io nel frattempo devo tirar fuori i soldi per la bolletta, sapete che c'è, io questo patto con lo Stato, a questo patto non credo più. Io credo che questo sia frutto di un'analisi superficiale e soprattutto un po' mistificatoria. Nell'agosto dell'anno scorso lo Stato era sull'orlo della bancarotta. Non si sapeva se a settembre sarebbe stato possibile pagare gli stipendi e le pensioni. Eravamo in una situazione in cui gli anemici sarebbero finiti all'obitorio, semplicemente. Lo Stato era finito. Ora è evidente che in queste condizioni la prima cosa da fare, l'unica, è recuperare risorse. Quindi mettere le tasse. C'è da mangiare, tutto deve essere diretto a procurarsi quanto basta per far mangiare prima i bambini e poi i piedi. Ma scusi, però, dottor Tinti, mi perdoni, certo, questo sì, però le risorse, la famiglia, se anche lo Stato, rimanda invece i propri tagli, le proprie razionalizzazioni di spesa? No, non è vero. È questo che non è vero. Ora, è evidente che la prima riforma, recuperiamo i soldi, e proprio perché è la prima in ordine di tempo da fare, è stata fatta nell'arco di questi 5 mesi. E è stata fatta, ci tengo a dirlo, non nei confronti dei poveracci, è stata fatta nei confronti di tutti i cittadini. Noi oggi abbiamo una patrimoniale severissima che è l'IMU, che certo che colpisce le piccola casa del piccolo imprenditore, ma colpisce le case delle classi più abbienti, finalmente valutate, intanto rivalutate e poi valutate a metri quadrati e non a vani, così il salone da 500 metri quadri non conta un vano, ma conta 500 metri quadri. Abbiamo delle altre patrimoniali, la tassa di stazionamento degli yacht, abbiamo il superbollo sulle macchine con molti cavalli, eccetera, eccetera. È ovvio però che queste misure di per sé daranno il loro gettito non immediatamente, questo per definizione, sì. Li vedremo fra un anno. Per di più abbiamo la lotta all'evasione fiscale. Oggi l'anagrafe tributaria verrà a conoscenza, in quanto gli verranno trasmessi dai cosiddetti intermediari finanziari, le banche, i fondi di investimento, le società di intermediazione immobiliare, degli estratti conto delle movimentazioni fatte dai clienti. Oggi l'anagrafe tributaria potrà consultare in diretta la quantità di soldi esistenti sui conti correnti, certo, semplifico, e la loro movimentazione. Se per questo anche gli elenchi telefonici, ma lei mi sta dicendo, cioè, che sono stati soprattutto colpiti le classi più abbienti italiane, cioè tutte, ma in particolare le classi più abbienti? Ma naturalmente, se per il semplice fatto che finora le classi più abbienti non erano colpite affatto. Ma scusi, ma tutte le cronache che parlano anche di persone che arrivano addirittura agli gesti estremi, togliersi la vita, imprenditori, piccoli imprenditori che non ce la fanno più, piccoli artigiani, piccoli... Questo che cosa c'entra con le tasse? No, voglio dire, non mi sembrano le classi più abbienti. Non ce la fanno più per colpa della concorrenza sleale del loro piccolo imprenditore vicino, il quale le tasse non le paga e pratica prezzi del 30-40% inferiori a quelli che praticano loro. Cioè, è sempre questa la questione. Cioè, chi il problema è quando non si vive secondo le regole, chi vive secondo le regole è pregiudicato e quindi non ce la fa. Ma questa è un po' una battaglia tra pari, se si vuole. Avvocato Sileone, le piace questa interpretazione? Voglio dire, l'imprenditore che rispetta le regole è svantaggiato perché c'è il piccolo artigiano che lo frega di fianco e quindi lui poi è costretto a arrivare anche a gesti estremi. Ha un senso l'idea che in uno stato di totale disastro fiscale come quello in cui ci troviamo ci si fa un po' la guerra l'un l'altro, ma questo è un effetto collaterale di cui la causa è sempre quella di qui sopra. Due battute sull'intervento di Tinti. È vero che in bancarotta era lo Stato e io non credo che adesso stia messo tanto bene visto che il debito pubblico aumenta ogni giorno, ma in bancarotta stanno cercando di farci credere che stanno salvando i conti pubblici mandando in bancarotta noi, e siamo noi che paghiamo i conti pubblici. Per cui stiamo semplicemente, con questa politica fiscale, stiamo semplicemente aumentando il tempo di agonia. Secondo punto, non vengono colpiti i grandi patrimoni o le persone abbienti, cioè quelle che magari possono anche trasferire i loro conti in qualche società all'estero. L'accisa sulla benzina la paghiamo tutti, sì. E non la paghiamo semplicemente quando andiamo dal benzinaio a fare benzina, ma la paghiamo anche sul rincaro dei prodotti che viaggiano su ruote. Sempre ironicamente su Twitter avevo scritto, visto che il governo sta pensando, ha detto il ministro Passera, stiamo pensando di rivedere la accisa sulla benzina, speriamo lo facciano prima della fine della guerra in Etiopia, per cui paghiamo parte di questa accisa. Le tasse sui valori mobiliari sono tasse sul risparmio, sono quelle tasse che vanno a intaccare proprio quel principio di tutela del risparmio a cui tutti, qualsiasi pensionato, attinge. Il via libera che è stato dato da ultimo alle addizionali locali colpirà tutti. L'aumento dell'IVA colpirà il consumatore finale. No, ma ieri anche il Presidente della Corte dei Conti ha detto che con troppe tasse non c'è la recessione, non vengono poi dall'estero anche a investire. Vorrei sentire Gino da Venezia che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Gino. Buongiorno a tutti. Praticamente ho sentito mentre ascoltavo la trasmissione l'intervento che ha fatto Beppe Grillo. Sì. Io mi ritrovo comunque in quello che ha detto lui, non tanto su quello che ha detto l'altro signore che è intervenuto subito dopo, perché con tutti i soldi che lo Stato amministra e che questi personaggi politici ci amministrano, praticamente i veri ladri secondo me sono proprio loro. È inutile che ci vogliano mettere loro chi i politici l'altro. È la classe politica. Sì, però l'idea che amministra tutto il nostro patrimonio. E va bene, questa è la sua idea. Quello che diceva il magistrato, l'ex magistrato Bruno Tinti, è che se non è che siccome loro rubano, allora uno è autorizzato a rubare pure lui. Questo è il concetto, Gino. Però non è bello che ci vogliano mettere l'uno contro l'altro, perché quelli che tra virgolette rubano lo scontrino fiscale Non può essere paragonato con i miliardi che loro ci rubano. Bello questo, miliardi, quello che rubano. Non è lo scontrino fiscale che manda in rovina l'Italia, perché io vorrei sapere, d'accordo, è aumentato del 14%, gli incassi sono aumentati in più, ma quanto pesano questi incassi che aumentano in più rispetto ai miliardi che portano via loro? Perché il peso, no, ma è chiaro, guardi, devo chiudere con lei, il peso specifico del latrocinio, ecco, mettiamolo così, il suo intervento, il latrocinio di uno scontrino non battuto non è equivalente ai miliardi che rubano i politici. Io ringrazio Bruno Tinti, di cui voglio ricordare La rivoluzione delle tasse, edito da Chiare Lettere, così come l'avvocato Serena Sileoni dell'Istituto Bruno Leoni. Grazie per essere stati con noi e ci troviamo domattina.